Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8 e 20 minuti in punto. In punto, spacca. In punto. E qui l'orario di Radio 24 è l'orario ufficiale mondiale. Mondiale. Sì, sì, sì. Infatti, altro che Greenwich. Ma infatti ti dico che Trump è a furia di non guardare questo orario che poi la notte fa queste strane cose. Sì, sì, sì. Abbiamo dato una teoria su questo. Coffee. Che mi pare possibile in realtà. Come on versus fucking Europeans. Ecco, fucking Europeans. Mi pare che sia uno degli obiettivi. Poi magari non sarà così e stava semplicemente dormitando, però potrebbe essere così. Allora, oggi, 1° giugno, San Giustino, famiglia in realtà molto probabilmente di funzionari imperiali latini che in Samaria, cioè in quello che oggi è un pezzo di Israele, dopo la presa di Gerusalemme e il Tempio raso al suolo nel 70 d.C., rafforzano fondando città la propria presenza, e quindi nasce in questo ambiente. È un intellettuale, un filosofo, non ha problemi, studia, è un classico filosofo ellenista di impostazione platonica, gira per la maggiore città dell'impero, ma si converte al cristianesimo e a Roma si troverà a difendere in più occasioni, anche in testi scritti, in due vere e proprie apologie, di cui una mandata al Senato di Roma ai cristiani, e la cosa gli costerà la testa, perché sotto Marco Aurelio verrà decapitato. Ma da allora è uno dei santi, quindi nella tradizione dei concili, sempre citato, non tanto perché ci restino chissà quali testimonianze dei suoi scritti, ma perché agli occhi ovviamente della gerarchia e dei fedeli è uno dei primi più grandi esempi di patriziato e di intellettualità, no? Il fior fior dell'impero, che capiva il cristianesimo al punto tale da farsi martirizzare. Quindi per questo da sempre confermato come un santo, che poi è diventato anche popolare a Roma. Anniversari: nell'80 nasce la CNN di Ted Turner, la prima televisione al mondo 24 ore al giorno solo di informazione, una rivoluzione. A me sembra preistoria, in realtà in termini storici non lo è. Nel 2009 General Motors va in Chapter 11, l'equivalente delle procedure concorsuali del fallimento americano, sarà salvata dai soldi del contribuente. Oggi la guida Mary Barra da 3 anni e dice no a Marchionne, però la verità è che senza i danni dei contribuenti sarebbe finita. Era il quarto maggior fallimento della storia americana. Dei compleanni, caro fratello Alessandro, io vorrei ricordarne solo uno, perché oggi è verbo al presente, il compleanno di Francesca Del Rosso. Lo so, è vero. Sarebbero 43, tu dici comunque. Ieri sera con questa associazione meravigliosa che con altri ho messo insieme, che si chiama Voglio Sono Io, avete già fatto una nuova iniziativa. Sì, c'era Paolo Ruffini, abbiamo proiettato il docufilm Resilienza, che secondo me dovrebbe andare in tutti i cinema italiani, magari un po' alternativi. Bellissimo, veramente molto bello. Ecco, volevo ricordare lei, te e tutti quelli che ti daranno una mano, e io mi farò video con i tweet eccetera eccetera, soldi eccetera eccetera. Wondi sono io, andate a vedere il sito, è una buona causa per vivere a testa alta, cancro o non cancro. Grazie. È wondisonoio.org se volete andare, e lì c'è. Caro Oscar, allora di politica ovviamente si parla tutti i giorni. Io ho visto che la Davigo, però scusa. Lo sapevo che tu Davigo, ma a me piace. Davigo ha detto entra in politica. Io dei politici mi occupo quando rubano. Che è diverso. Non sono d'accordo col suo giustizialismo, ma devo rendere onore pubblicamente alla coerenza di un uomo che dai tempi di Mani Pulite diceva cosa bisogna fare per ammonire i politici, e la risposta fu sempre politici non rubate, punto. E tanti anni dopo dice io di politica mi occupo nel senso che quando i politici rubano, che è un un po' diverso. Ieri Dino Di Matteo, famosissimo pubblico ministero antimafia a Palermo, ha detto: io non sono d'accordo con Dovigo. Ha fatto capire che si candiderà alle politiche, entra in politica. Voglio ricordare, e perché tutti lo ricordino, che almeno Di Matteo dice: ma non prenderò l'aspettativa per tornare poi a fare il magistrato dopo. Certo. E in quanto tale è predicato essere il ministro della giustizia in un futuribile governo. Però che Davigo rimanga come, no, una colonna turrita, non cambia idea, è una cosa fantastica. Cioè, la coerenza è la coerenza, certo. Dai, ecco. Poi c'è stata la dura presa di posizione di Renzi nei confronti di Alfano, insomma, che di fronte a questi dubbi sul sbarramento al 5% ha detto: ma insomma, Alfano, sei stato ministro di tutto per un po' di anni al governo e non raggiungi il 5%? Cioè, come dire, beh, questa è una bella botta politica che Renzi ha voluto. Sembra quasi che non fosse nei suoi governi, però detto tutto questo... Pensa al povero Angelino, pensa a posso dirti, mettiti nei panni di Berlusconi, che senza dire una parola di ira, senza mai, nei confronti di tutti quelli che l'hanno lasciato, li vede di volta in volta incartocciarsi, incartapecoriti, autoribaltarsi. No, però non subito, fini no. Come dire subito, Alfano. Ma Berlusconi sa aspettare, è stato ministro di tutto, effettivamente. Berlusconi dai tempi di Ramsete II che va avanti. Però io vorrei far riflettere i nostri ascoltatori, ci sono due sintesi che io trovo efficaci sia del Corriere della Sera che Repubblica, e sono anche convergenti: la sintesi della nuova legge elettorale, perché il titolo di Repubblica è la doppia candidatura, torna il paracadute per i big, ci si potrà candidare in un collegio uninominale e tre proporzionali, così è blindata l'elezione di leader e fedelissimi. Il Corriere della Sera come titola con il testo presentato ieri, più potere ai partiti. Ecco, capilista bloccati e paracadute nei collegi. Come vedi, la lettura è univoca, non è il cattivo Giannino che ce l'ha con una bella legge elettorale. E questa roba qua, cari ascoltatori, la vera facoltà che si allarga è quella dei capi partito. La vostra facoltà di poter incidere, indicare quali sono i governi, sparisce. Sì, e poi ci sono alcuni aspetti, per esempio l'intervista a Luigi Di Maio oggi su Repubblica, che risponde alla domanda: con chi farete poi eventuali alleanze, con chi appoggia il programma? Cioè non è più il Movimento 5 Stelle che dice no, giammai, sempre da soli, con nessuno, è perché questa legge elettorale poi comporterà delle alleanze da fare in Parlamento. Ma tu ci credi al virgolettato che il Corriere della Sera attribuisce a Berlusconi? Beh, se l'ha detto, a me sembra, non so se l'hai visto, perché prima la segna non alleanza perché dice verso la fine dell'articolo firmato da Marco Galluzzo, si dice che a un certo punto Berlusconi dice ai suoi, ieri in una riunione, con grande durezza: il centrodestra testualmente non può essere populista, cosa che non ci appartiene, e quindi se la prende con Salvini. E a quel punto aggiunge: meglio Renzi, virgolette, che sarà anche poco affidabile, ma almeno al merito di aver ucciso i comunisti che aveva in casa. Le vocazioni comuni di Berlusconi e Renzi, secondo Berlusconi, io non lo sto dicendo. Certo. Io non so se crederci, però. Non lo so, vediamo. Non lo chiederemo certamente a Matteo Richetti, che intanto in quella riunione non c'era nel Partito Democratico. Buongiorno, Matteo Richetti. Buongiorno. Matteo Richetti l'abbiamo chiamato perché è colui che l'abbiamo anche invitato pubblicamente in onda, perché è colui che sta portando avanti questa battaglia per strameritoriamente per rivedere i vitalizi secondo il metodo Fornero, ecco, chiamiamolo così, il ricalcolo contributivo per i vitalizi pregressi, quello vero. Ecco, intanto Richetti, una questione tecnica: si farà questa legge? Perché abbiamo visto già che c'è stato un rinvio ieri, perché bisogna dare la precedenza alla legge elettorale. Non è che rischiamo di andare, mannaggia, per le lunghe, salta tutto? Beh, questa non è una questione tecnica, mi pare una questione abbastanza di sostanza. È centrale, no, alla tecnica. Fine discutiamo di nulla, voi direte, ma che... Milan, se non ricordo male, io e lei ci siamo conosciuti 8 anni fa, quando io facevo questa cosa in regione. Come no, e ci siamo anche, insomma, riusciti, nel senso che io non lo dico, insomma, eroicamente, ma ho fatto 8 anni di regione e di vitalizio prenderò nulla, non il contributivo, perché io sono convinto che la pensione la fa maturare un mestiere e la politica non sia un mestiere, ma questa è una convinzione personale. E in Parlamento la situazione è questa: dovevamo andare in aula ieri, Ieri c'è stata la fiducia, quindi come prevedono le procedure parlamentari, quando c'è la fiducia si sospendono le commissioni, si dà precedenza all'Aula e si chiude questa mattina il voto finale sulla manovrina, e poi dopo, in considerazione del fatto che il termine del 5 per la legge elettorale in Aula è perentorio, noi facciamo venerdì, sabato e domenica in commissione, lo dico con grande rammarico perché porca di quella paletta, speravo di fare altro, e poi lunedì c'è la legge elettorale, come lei ha anticipato il termine di calendario. Diciamoci la verità, noi possiamo approvare entro giugno questo provvedimento alla Camera, provvedimento che è stato insultato, dileggiato, incostituzionale, retroattivo, ti faremo vedere cause, i sorti verdi, sì, va bene, sì. Le cause, i ricorsi, l'autodichia, tutto bene. E poi c'è il fantastico mondo di Amelie, nel senso che questo provvedimento deve andare al Senato, esatto. E lì si sgrana il rosario, via che si va. Sa che ieri Toninelli del Movimento 5 Stelle, che appoggia questa, il Movimento 5 Stelle appoggia, ha detto dopo se passa la Camera dormiremo coi tappeti davanti a Grasso, all'ufficio del Presidente Grasso, finché non lo calendarizza in Senato. Ma io non ho dubbi che Toninelli dica la verità, siccome ha dormito 2 anni prima di firmare la mia legge, perché non deve continuare a dormire un altro po' davanti al Senato. Perché ragazzi, non è che questa legge qua, tutti convertiti sulla via di Damasco quando qualcuno ha sentito odore di voto sperando che faccia cubare qualche voto in più, dicendo che ha fatto la battaglia per i vitalizi, che è una roba di una miseria, di una povertà che c'è solo da vergognarsi. Sono 2 anni che io l'ho presentata, ho cercato, esatto, come si fa nelle istituzioni, no? di costruire un dialogo parlamentare. Dice per due anni ognuno invece ha fatto di testa sua. No, ieri ancora gente che veniva a chiedermi se poteva firmarla. Siccome adesso pensano, sta a vedere che siamo fortunati, non arriva in fondo, ci caccio pure la firma, certo, così. Certo, passo per il buono, passo per il buono. Ma non devo spiegare a lei, scusi, siccome io sono un plurinsultato pluriennalmente da alcuni parlamentari dicendo che ci voleva ricalcolo con contributivo, quindi c'è un piccolo pezzo delle mie ferite nella sua battaglia. Gente che l'attaccava dicendo che il suo provvedimento era del tutto inutile, perché come è noto il problema dei vitalizi non esiste più, questa è la versione ufficiale come lei sa, che adesso fa dichiarazioni pubbliche, e io mi riservo per non danneggiare la causa di non attaccarli, perché ne ho visti un paio e ho detto veramente la faccia di tolla. Adesso mi permetto di dirlo perché non lo avrei detto per non recare danno, ma solo dopo che lei per primo, insomma, si dice mamma mia che cosa bisogna vedere. Io sono abbastanza convinto, tra l'altro abbiamo fatto una legge seria, sostenibile, cioè quando io trovo una situazione di un ex parlamentare che negli anni 60 ha versato sostanzialmente nulla perché nemmeno esisteva il metodo contributivo e quindi è plausibile, cosa faccio? Prevedo il calcolo secondo il sistema contributivo, indicizzando a parità dei contributi che versiamo noi, e quindi a quella persona sicuri 800-900 euro. Quindi non è che neanche gli togliamo se uno ha fatto 3 giorni solo in Parlamento. Se uno ha fatto 3 giorni e ha perfezionato con i versamenti propri, certo, la sua, certo, posizione per una legislatura. Io sono una persona seria, io non ho lanciato la caccia al politico, esatto. Io sono perché il politico venga trattato davvero come gli altri. Appunto. Qui il problema è che tutti parlano, dobbiamo dare un segnale. Io non devo dare nessun segnale, io devo ripristinare un principio violato. Il principio violato è quello per cui chi ha un mandato a fare le regole, le leggi, le fa uguali per tutti, non le fa diverse per sé e poi per gli altri, il TFR per sé e poi per gli altri. Questo è il punto, non è il segnale di che la politica si è messa la mano sul cuore e vuole dire ai cittadini soffriamo un po' anche noi. Ma che cazzate sono queste qua? Il problema, la cosa profondamente violata è trattarsi diversamente dai destini, sì, della comunità che ti ha dato il mandato a fare delle leggi. Ma questo sì, però confessi Richetti, non è che qualcuno deve... All'inizio l'hanno accusata, l'hanno attaccata, al populismo, non si può fare appunto l'autodichia, faremo i ricorsi. Adesso ci sono molti che nell'ombra sperano, che dicono tanto non ce la si farà, i tempi non sono buoni. Quindi... Sì, però io le voglio dire un'altra cosa. A febbraio di quest'anno, Di Maio, Fraccaro e Allegra Combricola lì, ha fatto una conferenza stampa a Montecitorio, e andate sul sito di online di Repubblica, è ancora tutto lì, e dicono legittimamente non serve la legge. La legge Richetti non serve a niente, basta la delibera dell'ufficio del Presidente. Io ho pensato che lo strumento della legge ordinaria fosse più forte, solido nel produrre questo cambiamento, e ho intrapreso questa via. ma è vero che in passato si è sempre utilizzato la delibera dell'ufficio di presidenza. Oh Milan, ma se uno vuole convoca gli uffici di presidenza congiunti di Camera e Senato la prossima settimana e la chiude, va bene? Perché io sono un deputato, ho lo strumento della proposta di legge, lo uso fino in fondo, non ci faccio propaganda. Io da quando sono stato nominato relatore sono passati non più di 15 giorni, perché io cosa devo fare? Ho corso, ho esaminato gli emendamenti, fatto approvare in commissione, lei ha preparato la trasmissione, ma se non la mettono in onda ha poco da fare. Se non mi mandano in aula io non... Quindi non lei dice, cioè Boldrini e Grasso che presiedono l'ufficio di presidenza, e l'ufficio di presidenza potrebbero in 448 bypassare anche la legge e fare tutto, no? C'è tutta una discussione che dice che la materia previdenziale può essere regolamentata con delibere degli uffici di presidenza, che ovviamente non sono soggetti all'iter bicamerale, gli emendamenti, cioè sono una delibera approvata. Allora, si assumono i contenuti di questa legge. Se vediamo a un certo punto che, secondo me, insomma, il 20 di giugno noi la possiamo chiudere, va al Senato, i tempi si allungano, si sa che in un giorno si può fare tutto, tanto è vero che il PD a un certo punto ci ha pure provato con la famosa delibera proposta da Marina Sereni ed altri, che riduceva, facendo risparmiare 2,5 milioni, mm-hmm. È chiaro, non è il ricalcolo contributivo, certo, diciamo la verità, certo. È un taglio che porta ad ottenere un risparmio per un'altra via, cioè con la riduzione invece che con il ricalcolo. Il ricalcolo per me è una questione anche di principio, così come trovo aberranti gli attacchi fatti a una collega che è intervenuta sulla reversibilità. Ah, ecco, appunto, anticipato, Daniela Gasparini, che ha fatto, che ha detto ci vuole però la rideterminazione per chi... sa cosa? La frase forse che ha detto l'onorevole Gasparini, sì, i congiunti dei parlamentari non possono finire a fare le sguattere o i giardinieri, che sono soprattutto i giardinieri. Offrendo a suoi colleghi, zelanti, commentatori, che casomai sono in pensione, quelli sì da 50 anni con retributivo, la stura per insultare una collega che sono 25 anni che si impegna in politica senza neanche avere una posizione previdenziale e adesso passa per quella della Casa. Ma mi faccia dire una cosa, cosa propone la Gasparini? Ci siamo accorti che se c'è una vedova di 90 anni che prende la reversibilità del marito come unica fonte di reddito, un assegno da 2.000 euro, con la proposta Richetti rischia, le faccio il meccanismo velocemente, ricalcola col previdenziale 900 euro, reversibilità al 60%, cioè noi passiamo da 2.480 euro creando un caso sociale quando oggi c'è questa persona di 90 anni che ha la badante. Allora ci siamo detti, siccome il vitalizio vive di alcune prerogative, cioè per avere la reversibilità non funziona come per tutti i pensionati, devi pagare di più, altrimenti non ti scatta, mentre per i normali pensionati la reversibilità è un automatismo di legge. Sì. Benissimo, abbiamo detto rafforziamo solo quelle situazioni, proprio perché non è una caccia alle streghe, limite, unico reddito di persone che non possono rimettersi nel circuito del lavoro. In questo senso si è scatenato l'inferno. Anche qua noi nei giorni scorsi, Oscar, da una parte si toglie, da una parte si dà. Una cosa che fa tagliare 70 milioni di euro, ma qual è la parte dove si mette? Ragazzi, non è che possiamo... Cioè, o noi ritroviamo equilibrio, se non sveleniamo un po', qui non si riesce, perché c'è la grande alleanza e tra i finti rivoluzionari e i conservatori veri, perché qui io le sto prendendo sia da quelli che fanno finta di sostenermi, perché Toninelli va a dormire da Grasso, poi sa qual è la più grande speranza che nutre Toninelli? È che non si faccia nulla, così in campagna elettorale dice il PD non ha fatto una mazza, perché se il PD approva una legge a nome Richetti, proposta da Richetti, relatore Richetti, ma secondo lei il 5 Stelle sono contenti. E poi c'ho i miei amici di partito che se non passa fanno festa. Siamo in mezzo a questa roba qua, finti innovatori e straordinari conservatori. Questa è la metafora dell'Italia, con un paese attorno a che commenta. No, la metafora dell'Italia non lo so, la metafora dei vostri partiti è un'altra cosa. No, è la metafora dell'Italia. Perché ma io non credo, abbia pazienza, perché lei descrive un Vietnam, e ha ragione, io lo capisco che è così. Nel suo stesso partito, come nei rapporti tra partiti, e questo però ha a che vedere con i partiti. Questa cosa della trasposizione, per cui gli italiani sono la stessa cosa, è come quando mi dicono che lo Stato sono io, quando hanno deciso la manovra. La manovra la decide chi l'ha votata e l'ha proposta, non l'ha deciso i membri dello Stato comunità. Allora, ma io non voglio polemizzare su questo, però dico, per esempio, se la faccenda dell'aumento della versibilità è solo per quello, Mi dispiace perché non è passata così nella comunicazione, ma la comunicazione, prima di farla agli avversari politici, la fa chi mette le cinque righe che spiega di che cosa si tratta in concreto, perché il messaggio che è uscito fuori non è quello che ci ha dato. No, ma Giannino, io da un giornalista serio come lei e che approfondisce le cose prima di dire, di parlare, di scrivere, non lo accetto, perché c'è stato qualcheduno che il giorno dopo di quell'emendamento, sì, ripeto, vedove che non... ha fatto in prima pagina un quotidiano nazionale il bluff dei vitalizi con la foto di Richetti. Questi sono i grandi alleati, non scomodiamo i cittadini, non diamo la colpa agli italiani. Quando dico la metafora del paese, aggiungo all'insipienza della politica dei commentatori che strumentalmente, finché si mette a fuoco solo e soltanto la politica, vivono di straordinarie condizioni in cui il rancore è tutto trasferito verso le istituzioni, è tutto trasferito verso i privilegi della casta. E un giornalista che scrive il bluff dei vitalizi mentre uno sfigato deputato sta provando a fare la riforma delle riforme, che non è solo il tema del risparmio di 70 milioni di euro, ma come li dico, il principio che noi scriviamo regole, certo, che valgono per i rappresentanti e i rappresentati. Beh, io non ci sto, io non voglio mica petali di rosa quando passo, ma neanche un tasso di malafede così elevato. Allora, questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché poi, come dicevate giustamente voi, il rischio è che alla fine del Vietnam ci sia l'incompetenza. E ancora una volta noi non saniamo quello che è una precondizione, un prerequisito, ma non possiamo fare i convegni sulla crisi dei partiti e la scarsa credibilità della politica se noi tutti i mesi continuiamo a staccare un assegno che ha fatto un mese di Parlamento. Oh, ma capisce anche un gatto. Siamo d'accordo. Anche i cinque gatti di Giannino. Guardi, le aggiungo però, siccome non so se crede che io appartenga a quel tipo di giornalisti, però le aggiungo questo. Ieri qualcuno faceva notare che nel decreto della manovrina c'è una norma anche per agevolare la pensione a 58 anni ai giornalisti, così si dà una mano agli editori per i gruppi in crisi. Allora, me l'ha segnalata dicendo, beh, tu lo dici? Certo che lo dico, perché io sono un giornalista freelance, che la pensione non l'avrà mai, e a maggior ragione, come mi batto per evitare i prepensionamenti per gli altri, se gli editori ottengono in un decreto la roba per farsi dare i soldi degli ammortizzatori sociali per prepensionare a 58 anni, allo stesso modo non mi sta bene. Questo per dire a Richetti che non bisogna generalizzare, ecco. C'è chi si occupa di queste questioni tentando di capirla e spiegarla per quello che sono. In ogni caso, noi dobbiamo in bocca al lupo a Richetti, insomma, noi ti faremo per questa, speriamo. La dobbiamo salutare però perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo un po' in ritardo. Matteo Richetti, buona, grazie, deputato del PD. A presto, pubblicità, rientriamo tra un attimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci. C'è Giancarlo da Torino, che buongiorno, ringraziamo per l'assidua pazienza, perché l'abbiamo rinviato un paio di volte in chiusura. Non credo. È un problema, signor Milan. Eccoci, Giancarlo. Tutto bene. Ascolti, volevo partecipare per esprimere un mio pensiero riguardo a Trump che vuole uscire dal Trattato di Parigi. Allora, secondo me uscire dal Trattato di Parigi è un crimine contro l'umanità, soprattutto per loro che sono un paese, un grande inquinatore. Per cui secondo me è sbagliatissimo. Poi oltretutto è una cosa che è, come si dice, contro le generazioni future, contro le persone giovani di adesso, che mondo si troveranno. Allora io ho una proposta, sì. Sanzioni contro gli Stati Uniti, sanzioni economiche permanenti, le abbiamo messi per la Russia per molto meno, le abbiamo messi per tanti altri paesi e sono sempre stati loro gli ispiratori. Adesso voglio essere io l'ispiratore, sanzioni contro gli Stati Uniti. Oggi Oscar ne scrive sul Messaggero. Io dico che è chiaro, è coerente a quello, a no a tutti i trattati multilaterali e così via. Penso anche che per l'Europa, se l'Europa ha intelligenza e coraggio, può essere un'occasione. Cioè, se l'Europa riesce innanzitutto a convergere al suo interno, ma a rilanciare lei un'iniziativa con Cina e India su obiettivi ancora più bagni, per farne un'occasione comune e dimostrare quindi al mondo che non significa se se ne va via il secondo inquinatore che anche il primo lo segue, cioè la Cina, come giustamente teme lei, questa può essere un'occasione. Questo in sintesi estrema. Poi vedremo. Oscar, scusa, perché... bisogna vedere le aziende, perché si raccontava nei giorni scorsi, bisogna vedere le aziende americane, cioè non è solo il presidente che politicamente fa una scelta, ma molte delle aziende americane si sono, come dire, riconvertite o hanno previsto grandissimi investimenti di convertirsi. E a dire la verità, anche il peso oramai del sole e del carbone, del settore del carbone, non è più così determinante come un tempo, sono in tutto 140.000 addetti. Quindi lo seguiranno. Il problema è lo shale gas, ecco, esattamente, questo lo seguirà. Lui è però molto convinto, l'amministrazione è spaccata, perché l'amministratore, il segretario di Stato Rex Tillerson, ex petroliere, capo della Exxon, è contrario a questa uscita. Incredibilmente, invece, il generale Mattis, il segretario della difesa, ha fatto una... Bisogna vedere poi il sistema economia America se segue Trump. Incredibile audizione al Senato in cui da ministro della difesa ha detto che è una, tra virgolette, minaccia agli interessi americani. La COP21 è una minaccia agli interessi americani. Dichiarazione un po' raggelante. Quindi bisogna veramente vedere. E posso dire l'ultima cosa, bisogna vedere anche che strada seguiranno, perché per uscire dalla COP, stando agli accordi formali della COP, con una CIE, non c'entra con le COP di consumo, la COP 21, si può uscire 3 anni dopo, dal novembre 2016, quando è stata formalizzata definitivamente. Se prendono questa strada, cioè 3 anni, in 3 anni finisce la presidenza, e quindi non vuol dire niente. Cosa diversa è se la fa bocciare dal Senato degli Stati Uniti, che non l'ha mai ratificata, nel qual caso effettivamente è un guaio grosso. Certo. Comunque, allora, noi adesso dobbiamo introdurre un candidato. È un candidato alle amministrative. Premio, si chiama Stefano Torre, candidato che è a Piacenza. Prima voleva candidarsi a Bettola, il paese che è abbastanza conosciuto. Ora è candidato sindaco Bersani a Piacenza. E lo salutiamo. Stefano Torre, buongiorno. Buongiorno a voi, a tutti gli radioascoltatori, e Dio benedica Piacenza. Ma certo. Stefano Torre. Ma lei è una manifestazione della benevolenza divina verso Piacenza, perché li vuole mettere di buon umore. Esatto. Perché Stefano Torre ha detto, va bene, i candidati in campagna politica promettono il sole, la luna, promettono cose che poi non mantengono. Allora sapete che c'è? Io le prometto davvero queste cose. Fantastico. Dal programma di Stefano Torre, abolirò la morte. Bellissima. Porterò Cristiano Ronaldo a giocare al Piacenza. Questa, a seconda di come finisce a Cardiff, potrebbe essere un problema, però vediamo. Porterò la Torre Eiffel a Piacenza. No, ma è bellissima torre, però che è questa? Una presa in giro? Ma è una presa in giro molto sottile, perché ad ogni punto del programma sottende anche una chiave di lettura seria, che fa riflettere e che diciamo traduce in chiave satirica una mia visione del mondo, che ho scoperto essere molto apprezzata e condivisa. Io a Bettola ho cominciato per gioco, ma ho trovato un consenso così ampio che mi ha spinto poi a mettermi a raccogliere le firme per presentare questa provocazione. Su un palcoscenico un po' più ampio. Lo so, a Piacenza, provocazione, ma voglio dire, il programma è tutto così, cioè porterò un vulcano a Piacenza, avremo l'indipendenza e una moneta nostra. Guardi, io speravo veramente che di fronte ad una provocazione così forte da parte degli altri candidati ci fosse un atteggiamento che cambiava, e invece no, soprattutto adesso nell'ultima settimana se ne sentono a raccontare di tutti i colori, da chi vuol far venire Renzo Piano ad occuparsi delle nuove opere pubbliche. Cioè l'hanno seguita, invece di reagire fingono di farlo sul serio. Cosa di veramente particolare il vedere ai dibattiti politici man mano i toni che si alzano, i miei che rimangono quelli di sempre scansonati e molto provocatori, ma quelli degli altri che si uniformano ai miei. Cioè, lei ha fatto una provocazione per dire così gli altri capiranno che non bisogna promettere la luna. No, invece gli altri la seguono e promettono. Infatti, io speravo che la mia discesa in campo cambiasse sostanzialmente i connotati della campagna elettorale, che invece evidentemente è rimasta uguale a tutte le altre, perché il vizietto dei politici di raccontare frottole agli elettori è talmente radicato da non poter essere stirpato nemmeno il dottore sindaco. Quindi io credo proprio che i piacentini ad un certo punto arriveranno ad averci davvero il vulcano, perché avanti così il consenso nei miei confronti sarà quasi plebiscitario. Fantastico. Io lo trovo fantastico, perché posso dirle, ci trovo due cose: nell'autoparadosso rappresentato, che è una grande forza, l'autoparadosso rappresentato quando si viene in un contesto, in questo caso quello dei partiti, che sono un paradosso negato, l'autoparadosso rappresentato diventa una forma apparentemente mai coltivata, perché la politica si prende troppo sul serio, ma in realtà che è connaturata a come si critica la politica. Cioè, per fare un esempio, che lo eleva tantissimo a Stefano Torre, quindi spero che ne sarà contento, nell'Atene del V secolo, quando Aristofane sfotteva, in realtà traslitterando di poco i nomi dei partiti politici, usava questo metodo. Quando sfotteva Socrate, che era vivente e andava allo spettacolo nella commedia Le Nuvole, usava questo metodo e ne rappresentava i dialoghi con la moglie in una maniera da poveraccio come tutti noi e non con i paroloni del filosofo. Allora, l'autorappresentazione del paradosso in realtà non finisce quasi mai per piacere a quelli che nel paradosso ci vivono, quindi io auguro alla sua lista il massimo di successo. Satira e surrealismo. Tra l'altro Torre dice c'è già uno studio di fattibilità per il vulcano, basta creare una camera magmatica sul Monte Santa Franca creare un vulcano a Piacenza. Il Monte Santa Franca era Bettola, qui a Piacenza lo facciamo sopra l'inceneritore, perché qui diventa importante riutilizzare il vulcano come strumento per bruciare i rifiuti. Ma posso fare una domanda? Ma in famiglia, quando hai iniziato a manifestare queste intenzioni, come hanno reagito? Bene, sì. Ma all'inizio qualche perplessità c'era, poi devo dire che sono passati. E sono tutti in lista. Mio figlio, mia moglie, mio padre, fantastico. Stefano Torre, c'è questo clima. Dai, fammi un pronostico, Oscar, dai, sulla Champions League. Io dico purtroppo vince la Juve. No, tu, io dai. Dico no, io levo il purtroppo. No, no, io lo ne metto due allora. Purtroppo vince posso la dire? Juve. Dipende da chi fa il primo gol, punto. Vabbè, chi fa il primo gol vince. Questo per Oscar Genio. Dai, ci troviamo lunedì. Ciao.